Proprio nel retrobottega di uno dei negozi del Canton dei Fiori, nel 1794, lo studente e patriota bolognese Luigi Zamboni progettò insieme all'astigiano Giovanni Battista de Rolandis la sollevazione popolare contro l'oppressione pontificia. I due erano animati dagli stessi ideali di giustizia, eguaglianza e libertà della Rivoluzione francese e per questo fecero cucire delle coccarde tricolori simili a quelle dei francesi, ma con il colore verde al posto del blu, per differenziarle e affermarne il valore nazionale. Fu questa l'origine della bandiera nazionale italiana. Napoleone, infatti, al momento di stabilire i colori della Lega Italiana, scrisse di suo pugno che sarebbero stati quelli nazionali scelti da Zamboni e de Rolandis, ovvero il verde, il bianco e il rosso. Queste le parole di Zamboni, come riportate da Felice Venosta nel 1864. «È necessario un vessillo nazionale tra un popolo che risorge a libertà. Noi al bianco e al rosso, colori della nostra Bologna, uniamo il verde, in segno della speranza che tutto il popolo italiano segua la rivoluzione nazionale da noi iniziata, che cancelli quei confini segnati dalla tirannide forestiera». Tutto cominciò nella primavera del 1791, quando Luigi Zamboni entrò in contatto con l'enigmatico abate Bosé, un monaco che viaggiava per l'Italia predicando al popolo e ai contadini gli ideali della Rivoluzione francese. Era costui in realtà Antoine Christophe Salicetti, agente in incognito al servizio di Napoleone, all'epoca ancora generale, precursore dei moderni 007 e creatore di una vera e propria rete di intelligence con cui stava preparando la discesa dell'esercito francese in Italia. Aveva una mente fredda quanto geniale, Salicetti, e per spostarsi in territorio nemico si serviva di volta in volta di opportuni travestimenti. E per muoversi indisturbato nello Stato Pontificio, cosa c'era di più adeguato che indossare il saio? Salicetti si servì di ogni genere di metodo per trasmettere le informazioni raccolte, come un telegrafo ottico, un sistema di colombi viaggiatori e una serie di cifrari. Così lo descrive Guy de Maupassant. Da Robespierre aveva imparato la freddezza assoluta, lo sguardo di ghiaccio, il mai manifestare alcuna emozione. Era un attore raffinato e staccato. Sapeva essere accondiscendente e poi impietoso, inflessibile e inesorabile. Salicetti fu così determinante nell'ascesa di Napoleone che nel 1936 lo storico Yevgeny Viktorovich Tarle scrisse: «Non sapremo mai quante vittorie attribuite a Napoleone furono del Salicetti. Di certo sappiamo che morto lui, il Bonaparte si avviò inesorabilmente verso i campi di sconfitta di Waterloo». Poco dopo il loro incontro, Salicetti arruolò Zamboni nell'esercito francese con la mansione di porta stendardo. Probabilmente si trattò di una copertura. Per poi coinvolgerlo in una serie di attività segrete, la prima delle quali fu l'occupazione dell'isola sarda di San Pietro, dove vennero applicate a livello sperimentale e con successo nuove regole amministrative derivate da quelle repubblicane francesi. In seguito Salicetti procurò una nuova identità per Zamboni, Luigi Rinaldi, e lo fece arruolare nell'esercito pontificio per studiarne la preparazione e la strategia militare. Una volta tornato a Bologna, Zamboni iniziò un'opera di reclutamento nell'ambito studentesco per pianificare una sollevazione popolare contro il governo tirannico dei legati pontifici che opprimevano ormai da secoli la città. Va precisato che per quanto Luigi Zamboni fosse un simpatizzante dei francesi, collaborando strettamente con Salicetti, egli era soprattutto un patriota e i suoi discorsi erano pieni di idealismo, impregnati di concetti come indipendenza, libertà, dignità dell'Italia. «In ogni palmo di terra italiana sia per tutti noi Italia», disse. «Uniti dalla fraterna legge saremo forti, ciascuno per tutti, tutti per ciascuno, e saremo invincibili». Oltre a Giovanni Battista de Rolandis, si unirono al gruppo rivoluzionario di Zamboni degli studenti dell'Ateneo di Bologna, tra i quali Antonio Forni e Angelo Sassoli, ma anche alcuni docenti, tra i quali i dottori in medicina Antonio Succi e Pietro Gavasetti. All'alba del 14 novembre 1794 tutto era pronto, anche se nel frattempo si era creato un problema. La sollevazione avrebbe dovuto essere spalleggiata anche dall'esercito francese, ma il governo parigino aveva deciso di rimandare la campagna d'Italia alla primavera successiva per problemi logistici. Zamboni e de Rolandis non si fecero scoraggiare e decisero di agire ugualmente, certi che il loro slancio patriottico sarebbe stato ripagato. Si dice che alla vigilia dell'azione Brigida Zamboni la madre di Luigi abbia distribuito ai rivoluzionari dei biscotti fatti in casa che in suo onore vennero chiamati brigidini. Così Zamboni e i suoi indossarono le coccarde, imbracciarono i fucili e iniziarono a girare per le strade, distribuendo ai pochi passanti le coccarde e un proclama dai toni patriottici. si riunirono alla Montagnola per prepararsi a dare l'assalto a Palazzo d'Accursio. Ma niente andò secondo i piani. La città era presidiata dalle guerre armate del legato pontificio. Erano ovunque, ma soprattutto erano stati creati dei posti di blocco nel quartiere universitario, in modo che nessuno potesse entrare o uscire. Ogni possibilità di scatenare una sommossa popolare era naufragata. Non ci volle molto per capire che qualcuno aveva tradito. Si trattava di Angelo Sassoli e di Antonio Succi, che avevano informato le autorità delle intenzioni della squadra di Zamboni. Circondati dalle guardie, Zamboni e De Rolandis si diedero alla fuga, scavalcando le mura all'altezza di Porta San Donato. Vennero inseguiti fino a Covigliaio, la frazione di Firenzuola dove vennero catturati. È a questo punto della vicenda che entra in scena il cardinale spagnolo Francesco Saverio de Zelada, inquisitore di inaudita crudeltà, al punto da essere soprannominato la mano sinistra del diavolo. Celebre per essere stato il persecutore di Cagliostro, il de Zelada fece incarcerare tutti i familiari dei congiurati e istruì personalmente il processo. I due imputati principali furono ovviamente Zamboni e De Rolandis, con un calendario serrato di interrogatori inframmezzati da sessioni di torture disumane. Il 18 agosto del 1795, all'età di 22 anni, Luigi Zamboni venne trovato morto nella sua cella del carcere del Torrone, talmente angusta da essere chiamata inferno. Si disse che si era impiccato. Tutti sapevano che era stato fatto ammazzare dagli sgherri di De Zelada. Scriverà Giosuè Carducci: «Le mie vittoriose aquile io voglio, piantar dove moriva il tuo Zamboni, ai tre color pensando, e vo l'orgoglio dei tuoi garzoni». Giovanni Battista De Rolandis fu giustiziato sulla forca il 23 aprile 1796. Aveva 21 anni. Lo stesso giorno, Napoleone valicava le Alpi con il suo esercito. Informato da Salicetti sulla sorte dei due patrioti, si adoperò perché il loro tricolore diventasse il vessillo della legione italiana. Poco dopo il suo ingresso a Bologna, cacciò il legato pontificio, condannò all'esilio il De Zelada e fece requisire tutti i beni della Chiesa. A Luigi Zamboni è dedicata una delle vie principali di Bologna, nel quartiere studentesco, che collega le due torri a Porta San Donato. La città dei portici.